Mario Mario Compuché. Oye, si ascoltiamo i nomi di Boris Yanka, Mauricio Ceuque, Facundo Guala, Celestino Cordova e tante altre prigionieri politici mapuche. È importante farli ogni tanto, credo, perché diventino un po' nomi che ricordiamo, che conosciamo. Io oggi ho mandato un messaggio a Mauricio Ceuque, perché ho visto che loro possono ricevere dei messaggi, quindi ho saputo che soprattutto se li ricevono e gli trovano questi messaggi non passano dei guai, perché questo poter ricevere messaggi è un conto, ma non sempre. Poi ecco, diciamo, le regole della detenzione sono uguali per tutti, quindi ho mandato un audio per fare un saluto a Mauricio Ceuque, per raccontargli che di nuovo oggi avremo parlato della sua storia. Ma io vi vorrei intanto consigliare di andare a vedere sulla nostra pagina Facebook, quindi quelli che trovate col nome spagnolo Rede Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche, abbiamo girato un video della compagna di Mauricio Ceuque che racconta la storia di come è andato il suo arresto e di come loro stanno vivendo adesso. Vi dico solo che si intitola che l'estato nos cagò la vita, insomma lo stato ci ha cagato la vita, ci ha distrutto la vita, no? Quindi già questo rende molto. Io vi dico di andarla a vedere, perché credo che sia uno specchio molto chiaro di quello che succede in una famiglia comune. Ve lo ripeto, Mauricio era una persona che stava tornando dal lavoro. No, questo non significa che non appartenesse alla rivolta, che non stesse nella rivolta, ma sicuramente, insomma, la rivolta nei suoi mesi ha visto gente che smetteva di andare a lavorare e andava in piazza, quindi insomma. Sì. Una cosa che dobbiamo sapere è che Mauricio Ceuque, del suo origine mapuche, esatto, stava nella capitale, Santiago del Cile. È un mapuche che legittimamente ha deciso di non tornare nei territori, ma di portare avanti la sua famiglia, che dobbiamo vivere in questa parte del paese che si chiama Cile, però sappiamo che esiste un'altra territorialità. Per questo possiamo pensare un gruppo di ragazzi che stanno fuori in un angolo a farsi una birra mentre passa un corteo. Due vie poliziotti. Ajà, come un'azione antipoliziale della comunità nella rivolta popolare. E la prima cosa che hanno fatto questo poliziotto è prendere questo gruppo di ragazzi, hanno preso questo giovane, Mauricio, e lo hanno ammazzato. Una cosa. Però non c'entravano niente con il corteo principale, o sì, loro stavano semplicemente. No, loro, allora diciamo, Mauricio stava tornando dal lavoro, ha deciso di andare nel suo quartiere. Sì, allora che succede? La mattina c'era stato un assalto, un'azione antipoliziesca, quindi un assalto di poche persone a volto coperto che hanno tirato delle bottiglie Molotov a un commissariato. Claro, giusto. Allora non è che hanno incendiato mezzo quartiere, hanno tirato delle bottiglie Molotov, non ci sono feriti, ci sarà un po' di puzzate bruciato, ma sappiamo che poi quella è la stessa posto dove viene portato Mauricio, quindi evidentemente a questo commissariato non è che sono stati fatti tanti danni. E Mauricio probabilmente questa cosa neanche la sapeva. Tornando dal lavoro decide di tornare nel quartiere dove vivono i suoi, la Vittoria, tra l'altro un quartiere anche noto, no, perché ha avuto un percorso anche. Un quartiere popolare, un quartiere molto vivo, dove adesso c'è l'assemblea che sta. Si chiama la Vittoria. Si chiama la Vittoria, e quindi lui decide di andare a salutare i suoi. Andando verso casa dei suoi, incontra degli amici di gioventù e si mettono a prendere una birra. Intanto, nell'ambito della rivolta, si svolgeva il corteo per Camilo Catrillanca. Per la memoria di Mauricio Catrillanca, a un anno dall'uccisione di Camilo Catrillanca, come si incrociano le storie di vita. Lui era seduto, allora io credo che quella è la posizione più pericolosa, perché quando tu passa un corteo, tu il corteo non sai neanche che c'è, non sai come è organizzato, sei in una posizione molto vulnerabile, perché non sei casomai una persona che sta nell'organizzazione. Questo un po' è successo. Dopodiché è vero che la violenza della polizia, che era avvelenata con quel corteo per quello che stava succedendo dalla mattina, è stata spropositata, tant'è vero che i tavolini vengono travolti da una camionetta. Cioè lui viene proprio travolto dal tank delle guardie, non dalle guardie a piedi. Per fortuna non si fa male e poi verrà prelevato. Nel momento in cui viene scoperto il suo simpatico cognome Mapuche, eccolo lì. Tu sei mapuche, le ha detto. E tutto peggiora. Sì, le ha risposto. Sì, io sono mapuche. Ah, tu sei di quelli a cui piace andare a incendiare? E allora guarda che te regalo. E gli mettono questa molotov nello zaino. Questo fa sì che... Perché è un atto razzista. De operazioni. Sì, è un atto razzista di uno stato razzista, mi sembra che vada di seguito, no? E quindi Maurizio dovrà, intanto la famiglia di Maurizio dovrà spendere parecchi soldi per fare una perizia sulle mani per far dimostrare che non ha idrocarburi, quindi non può essere stato lui, perché lui viene anche accusato dell'assalto alla Vittoria. L'hanno dimostrato, la cosa è come che l'ho portato, questo è lo che non si può dire che è falso. Che per questa situazione dobbiamo aspettare anche oggi questa risoluzione del giudizio di Maurizio Ceucchi. Sì, ma è chiaro che Maurizio sta vivendo questo per la sua condizione di mapuche. Come... Questo è palese, la compagna di Maurizio lo dice, in Cile se c'hai l'apellido mapuche eres culpabile. Questo ci dimostra giustamente, come diceva Marta, il profilo razzista di uno stato come Cile. È probabile come Cile. Che questo ragazzo aveva detto no, io sono cileno, e il ragazzo è libero adesso. Sì, il trato sarebbe stato un altro, c'è un accanimento particolare per... la condizione di mapuche, l'autodeterminazione. Lo dico così per spiegare semplicemente o per cercare di spiegare semplicemente cosa significa quando diciamo il Cile è uno stato razzista, perché nelle sue istituzioni, cioè la polizia, che comunque è ovunque, è un'istituzione repressiva, non in difesa del potere, perché funziona così. No, certo, però insomma. Però comunque resta una istituzione dello Stato, e per questo potremmo anche chiedere un'altra, esigere più, direi, un'altra chiarezza, un'altra forma, e succede questo in Cile. Sì, il processo di Maurizio sarà il processo di Maurizio sarà il 29. Però perché ne parliamo tanto? Perché questa condizione di confermare il proprio essere mapuche, quindi di non dire no, io sono cileno, ho il cognome mapuche, ma ormai mi sento cileno, no? Che poteva pure essere un modo casomai di salvarsi un po', ma certo. No? E, allora, Maurizio, l'avvocata che ha parlato con Maurizio, probabilmente con lui più che mai ci parla di una persona che ha scritto e ha. Allora, noi ieri abbiamo pubblicato. L'altro ieri sul nostro blog l'articolo in italiano preso appunto dallo spagnolo che racconta la storia di Maurizio, e io vi chiedo, vi consiglio di andarla a leggere, perché insomma poi è più facile leggere e ricordarsi le cose che... però se c'è una cosa che mi ha colpito molto leggendo quell'articolo è proprio, voglio dire, di tutti gli avvocati e tutte le avvocate che io ho sentito parlare in questi mesi di rivolta, difficilmente, e penso proprio per l'esperienza e la vita delle persone cilene, non si gioca tanto sul dire ho visto segni di tortura, perché si ha un bagaglio in cui le parole hanno un peso importante, e quindi spesso io non ho sentito parlare per tutti i prigionieri di segni di tortura. Questa volta l'avvocatessa racconta proprio che alla vista di Maurizio, alla prima volta che l'ha visto, ha avuto i brividi, ha avuto la stessa sensazione di nausea di quando vedeva le persone sotto tortura durante la dittatura, o comunque le persone che avevano subito tortura. Maurizio ha lo sguardo perso nel vuoto, cammina gongolando, perché si viene sottoposti a una deprivazione sensoria che non è solo quella della luce accesa 24 ore, di tutti questi metodi infami che conosciamo, ma è anche quella di un'umiliazione e violenza continua che ti despersonalizza in una maniera molto importante. E questo sguardo nel vuoto, che quando incrocia il tuo sguardo comunque è uno sguardo spento, e quindi ci stiamo preoccupando anche di tutto quello che sta succedendo a Maurizio da qui al 29, da qui al giorno del suo processo, perché pensiamo che sia importante, laddove il Cile è un governo che va a braccetto con il nostro governo, dove noi vendiamo armi al Cile, il Cile si nutre dei nostri armamenti, dove fior di nostri presidenti dei consigli hanno fatto affari piuttosto che sono andati a braccetto, insomma, una delle tante uscite di Renzi. Ma a me di Renzi non è che me ne frega di più o di meno dell'altri, perché io capisco che casomai lui è più sfacciato di altri, mo c'è storia, a me mi parlano tutti uguali. Comunque mi ricordo che Renzi comunque parlò di Piñera come un esempio di riforme. Mo, non lo so, e riforme di Piñera sono i 30 pesos che hanno fatto scoppiare le stadigio. Ecco, non so se ci rendiamo conto. Quindi credo che la nostra responsabilità non è fare le pie donne caritatevoli verso questi compagni che stanno nei guai in Cile, ma è forse svegliarsi e dire che il nostro governo è attaccabile per le misure, per i DPCM, per la nostra precarietà, ma anche perché Io credo che i laboratori, certi laboratori che stanno dall'altra parte del mondo, poi sperimentano cose che piano piano ci vengono proposte. Qua ancora non è bastato, dico, scuola Diaz per capirlo. Ancora non. Sì, esatto. Continuare a dirlo, cioè non ve ne siete accorti che anche lo Stato italiano è capace di arrivare fino a quel punto e oltrepassarlo, direi. No? Sì. Secondo ha detto la giustizia europea, certo, noi in Sud America questo lo abbiamo più presente, e per questo non si scherza quando si parla di tortura nei prigionieri, perché veramente lì. Non è che io volevo dire che si scherzasse. No, per carità, io non ho mai sentito nessuno che scherzava. C'è la denuncia di Maurizio, e dice questo l'avvocatessa, perché veramente per non me stiamo sì, parlando esatto. di una sberla. Esatto. Stiamo parlando di torture dei paesi che c'è una cultura, una tradizione di persone che hanno fatto schifezze. Sì, e soprattutto io non voglio togliere niente a nessuno, però è vero, la Diaz è stata la più grossa sospensione, insomma, per dirlo loro, la più grossa sospensione dei diritti civili dopo la Seconda Guerra Mondiale, che non è esattamente un'affermazione da poco. È vero che è quello che è successo in una notte, probabilmente invece queste sono pratiche che ancora dentro nel senso che è una scuola che viene da un'antica scuola, senza voler far passare per buoni tutti gli altri. Però probabilmente appunto c'è un'introiezione diversa sia da parte della polizia e dello Stato, no, che da parte di chi invece affronta questo tipo di cose e giustamente appunto probabilmente Maurizio Cieco sta subendo una violenza sistematica fino al 29 per arrivare a quella data chissà come, insomma, anche perché sì. Esatto. No, è capire quello, fate un'idea, ti dico, di una scuola di una cosa di una esatto. notte, come dice Marta, che è stata sì un'eccezione. Un'eccezione per i limiti ai quali si sono arrivati e oltrepassati, non che non esista la repressione qua all'interno. No, sì, come sicuramente poi le istituzioni. Un'eccezione in quei limiti, immaginatelo, non moltiplicato, fatto cultura. Esatto. Fatto cultura nelle istituzioni. Esatto, dopodiché è chiaro che questo non significa che non succeda in fior di paesi occidentali, partendo da qui, insomma, tutto ciò che sono un'introiezione delle istituzioni invece di ciò che risulta essere tortura e viene letta semplicemente come una punizione, c'è un grosso dibattito e penso, insomma, che vada assolutamente ascoltato e tenuto insomma da forte conto. Detto questo, appunto, Maurizio Cieco, questa è la sua condizione, ma quando noi vi parliamo di Maurizio Cieco, appunto, cerchiamo un po' di riportarvi anche, di ricordarvi un po' qual è la situazione di tantissimi prigionieri politici di cui, ahimè, purtroppo si stanno avvicinando i processi. È un padre di quattro figlie. Sì, è un padre di quattro figlie, era l'unica recursa, era l'unica entrata che aveva nella sua famiglia e invece poi che succede accanto alla famiglia di Maurizio Cieco, che c'è per esempio la Vittoria, l'Assemblea della Vittoria, che è un'assemblea popolare del barrio La Vittoria, cioè l'assemblea di questa assemblea popolare che vi parliamo, no? Che ci sono nelle zone, che poi decidono e che poi portano all'assemblea le proprie vertenze, insomma le proprie richieste. L'Assemblea della Vittoria ha saputo dell'arresto di Maurizio, non ha dubitato due volte a farsi presente con la famiglia di Maurizio, nonostante non viva in quel quartiere, perché si è sentita, perché ha visto Maurizio come un prigioniero comunque, come tutti gli altri, perché sa che comunque loro stanno organizzando il corteo, perché non si lascia da solo nessuno. E quindi, insomma, la Vittoria, l'Assemblea della Vittoria, adesso insieme chiaramente alla 18 ottobre, alla, insomma, la rete di appoglio dei familiari e degli amici dei detenuti, sono l'unica presenza e l'unico sostegno per la famiglia. E, appunto, io vi dico, c'è un articolo che abbiamo pubblicato ieri sulla storia di Maurizio, di andarvelo a leggere, di andarvi a cercare, secondo me, anche la devo dire, questa forte intervista, non è proprio un'intervista, insomma, è una sono delle dichiarazioni, insomma, che lascia la compagna di Maurizio, perché credo che narri molto bene che cosa significa per una famiglia così poi trovarsi non solo in questa situazione adesso, ma travolta da una da una possibile condanna che appunto vede qualcosa tipo 20 anni, mi sembra, per Maurizio, no? È una richiesta, mi sembra. Sì, dobbiamo aspettare il giudizio questo giorno e forza per tutta l'energia del Peñi, del compagno che adesso sta prigioniero nella carcere cilena. Sì, infatti, è proprio alla luce di questo, insomma, abbiamo voluto mandargli un messaggio perché pensiamo che forse è quel poco calore che può arrivare, che chissà, un pochino può essere utile. Sì, e suona a Roma, che è un posto cristianissimo dal mondo, che per questa cosa della famiglia, figlie, va bene, è come queste ragazze che parlano male nella piazza, che nell'angolo con gli amici, dopo l'hanno preso per mettere una bomba molotov per un giudizio, esatto, terribile. Esatto. Così. Parliamo anche oggi di Boris Janka, il compagno che adesso sta prigioniero nella carcere di Angol, una carcere piena di prigionieri politici mapuche, che... è una situazione complessa, perché adesso, in questo momento, oggi pomeriggio proprio è l'udienza per il suo processo. È pomeriggio dal Cile, che sarebbe 4 ore meno